quando arriverai, forse mi chiamerai, questo non è il mio posto, io non ci sarò più, forse mi cercherai, forse te ne andrai, ma questo non è il mio posto, non mi troverai più. Non so cosa dirai, forse capirai, questo non è il mio posto, non tornerò mai più. Chissà come sarai, vedrai solo guai, ma questo non è il mio posto, non tornerò più. Forse mi scorderai, forse ti innamorerai, ma questo non è il mio posto, non ci sarò più. Forse piangerai, forse mi perdonerai, questo non è il mio posto e non tornerò più. Chissà chi sorriderai, chissà chi abbraccerai, ma questo non è il mio posto, io non ci sarò più. Chissà per quale strana ragione mi sono ritrovato qui, in un altro tempo, in un'altra dimensione, circondato da persone con cui non condivido nulla. Non ricordo il mio passato, ma questo non può essere il mio posto. Non mi appartiene questa violenza, questa indifferenza, tutta questa competizione, questa falsità. Mi manca il mio pianeta, mi manca il mio tempo. Questa non può essere la realtà. Tenetevi le vostre sicurezze, le vostre convinzioni, la vostra superiorità, la vostra presunzione. Questo non è il mio posto. Forse sono riuscito a riparare la macchina del tempo, ma non so dove mi porterà. Ti scrivo perché so che mi mancherai. Forse anche tu non sei di questo pianeta, ma non te ne andrai mai. Addio, pensami fino a quando ci sarà ancora la possibilità di guardare il cielo stellato, la luna, la natura o anche solo un animale. Questo è quello che dovevate proteggere, ma ormai è troppo tardi. Prima che le radiazioni brucino tutto, prima che ogni foresta muoia, prima che ogni animale venga sterminato per un capriccio, prima che un'epidemia ci costringa a soffocare, prima che la fame ci faccia morire da schiavi, prima che una guerra ci costringa ad uccidere un fratello, me ne voglio andare. È troppo triste questo finale, non è così che dovevo andare. Perdonami, ti sembrerò codardo, egoista, ma questa non può essere la realtà. Questo non è...